c'è un altro pianeta dove esiste il rispetto per l'ambiente, dove lo sviluppo è intelligente, dove vivere è un piacere. L'altro pianeta, il programma che vi racconta cos'è e come si pratica la sostenibilità ambientale. Ogni sabato alle 15 con Laura Bettini su Radio 24. Nella prossima puntata sincronizzeremo gli orologi sull'ora della Terra, l'evento mondiale promosso dal WWF che invita tutti a spegnere la luce per un'ora.